Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Diawara al Biol. Mertens lascia passare Kayakon, la palla per lui, tutto regolare, Kayakon, pallonetto, rete! Rete, Kayakon non sbaglia! Kayakon non sbaglia! Come quando le cose vanno non così bene, i compiti si devono fare alla fine. È già una impresa, è già una soddisfazione, è un qualcosa di importante essere in ottavi con le 16 squadre più forti d'Europa. Gulam rimasto alto, Koulibaly, attenzione, Mertens, zona tiro, doppio dribbling, Mertens, rete, che gol, che numeri, Mertens, fuori classe assoluto, 2-0, fuori classe assoluto. Oggi la squadra era anche tutta la banchina, siamo stati molto concentrati perché sappiamo che oggi era difficile qua e anche abbiamo... Sfortuna che la Kiev vince, ma non era facile una serata così. Noi siamo già stati scottati una volta guardando il risultato dell'altra partita, quindi ci importava veramente poco. Volevamo il primo posto nel girone, perché il Napoli non ha mai fatto un primo posto in un girone Champions, quindi per noi era legare questo gruppo a un risultato storico era importante. Allora, vi do subito una non notizia che non riguarda il Napoli, è ufficiale il rinvio del closing per il Milan, proroga al 3 marzo 2017, arriveranno altri 100 milioni nelle casse rossonere, non notizia. Invece, la notizia è che servono due notti magiche a Napoli per tornare ad essere grande, l'avevamo un po' affossato, invece la vittoria schiacciante sull'Inter e la vittoria in un tempio del calcio europeo e mondiale come lo stadio da Luz di Lisbona. Ciao Pardo. Ciao, come va? Bene, dai, direi come il Napoli. Benissimo. Primo grande Grande serata. Abbastanza tranquilla perché insomma era evidente che stavolta non ci sarebbe stata la rimonta del Besiktas, però il Napoli poi ha fatto pienamente il suo e entra por la puerta grande, come direbbero gli spagnoli, negli ottavi di Champions, cioè è altissima. Sì. Senti, c'è una persona, io in linea, una persona che ti vuole ringraziare su queste, con questo, dedicandoti una canzone, vai. Un motivo, questo. Capito cos'è, no? Capito. Buongiorno Boris Sollazzo. Grazie Pier Pardo. E ci fai piangere abbracciati ancora. Hai visto? Ti voglio bene, Pier. Ci voleva poco. Insomma, non tanti l'avrebbero fatto con questa sportività e amicizia, quindi do a Pier Pardo quello che è di Pier Luigi Pardo. Ci ha fatto per amicizia questo favore, io lo prenoterei se possibile anche per... Vabbè, adesso non esageriamo, cioè non ci allarghiamo perché poi... Cioè, lo sai che siamo dominati dalla scaramanzia noi napoletani, quindi io non posso farne a meno, poi insomma, sì. Poi non è detto che non è detto che vincere questo girone possa essere una fortuna visto quello ma che sta succedendo in tutti gli altri. Ma no? Quello è il piano Napoli, insomma, chiaramente vinci il girone l'unica volta che non ti conviene. Vabbè, Pardo, niente, no, raccogli vista, pure gli auguri, vista, gli ringraziamenti di Sollazzo sull'inno della Dinamo Kiev. Poi ci siamo messaggiati, io in realtà non avevo grandi dubbi, avevo dei dubbi e non mi aspettavo che fosse una serata così tranquilla. Mi aspettavo anche che qualcosa potesse succedere da Kiev, ma non così, ecco. Beh, è andata in maniera più liscia e più morbida di quello che si poteva immaginare, è andata bene. Dopo un tempo, peraltro, in mezzo alla disperazione dei giocatori del Besiktas, quindi... Assolutamente. Però insomma, il Napoli, al di là di tutto, il giudizio delle sei partite che stramerita il primo posto, ha dimostrato di essere nettamente superiore al Benfica nei due scontri diretti, ha avuto qualche episodio che l'ha condizionato, ha ricordato con Besiktas fuori gioco, noi va bene? Sì. Il gol con Besiktas nella partita andata è stato certamente in fuori gioco, non è una scusante, il Napoli quella partita lì non l'ha giocata benissimo, però insomma complessivamente nelle sei partite in un girone molto equilibrato ha dimostrato di essere la più forte, quindi merita il primo posto. Sì, di entrare dalla puerta grande, come hai detto tu prima, cosa che mai era accaduta, ma anche perché in passato il Napoli aveva avuto la sfega di essere inserito in gironi praticamente impossibili ed era stato eliminato pur facendo molto bene, no? Come solo Lazio si ricorda. Beh, è incredibile che ieri saremmo passati come primi anche con 9 punti, insomma con 12 siamo arrivati terzi, e ricordiamo pure che con 11 noi siamo arrivati secondi comunque. Sì, sì. Con, nel girone con Manchester City e Bayern, via dicendo. La cosa incredibile di questo girone non è tanto che Napoli è arrivato primo, perché poi dobbiamo essere onesti, era assolutamente alla sua portata il risultato, è stato un sorteggio fortunato, non ho timore di dirlo, è più che altro che Napoli fa i punti che ci saremmo aspettati noi tifosi, cioè 11, però sbagliando praticamente tutto, nel senso che ne fa 6 col Benfica e forse ne avremmo pensati 2 o 3, e ne fa 1 col Besiktas, che abbiamo visto che squadra è, una squadra molto fortunata, molto grintosa, che però vale secondo me molto di più quel 6-0 contro la Dinamo Kiev, anche se ci sono stati 2 espulsi, che non il 3-2 assurdo al San Paolo. Cioè adesso non dire che aveva ragione Sarri nel dire ma noi siamo scesi in campo nella partita precedente sapendo che non contava nulla, perché quella era forse semplicemente ieri una bugia. L'ho detto ieri, e secondo me io purtroppo temo che non lo fosse, quello dice molto dell'immaturità del Napoli, che si è vista ieri secondo me in parte anche nel primo tempo in cui era contratta, era impaurita. Io temo che invece fosse vero, cioè fosse vero che contro la Dinamo Kiev il Napoli ha giocato a metà della sua forza, perché proprio mentalmente non riusciva e questo è un a limite e questo è un limite, questo è un limite, questo è un limite incoraggiante, e dall'altro un limite. Dall'altra unità, dai, ti regalo un'altra gemma di Pardo, cosa vuoi chiedergli? Ma non lo so, forse no, ma non lo voglio sprecare il mio buon non vuoi sprecare Pardo. Il jolly? Voglio usarlo per gli ottavi, perché poi non è, bene, le cose belle come Pardo non si inflazionano, quindi non voglio chiedergli. Ragazzi, mi state troppo, facendo venire il diabete. Ciao Boris. Ciao ragazzi. Ciao. State lì che poi cominciamo a parlare della gara del Napoli in un'altra chiave, in un'altra luce, anche proiettandola sul futuro, perché arrivano pure la partita del campo e la partita IVA, come dicevamo ieri, arrivano pure i dollaroni, arriva pure il grano della Champions League. Traffico. Tutti convocati. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Tutti convocati. Stasera c'erano in campo 97, 94, 95, quindi è chiaro che non può essere ancora una squadra completamente matura, ma questo fa parte dell'età media di questa squadra e anche delle esperienze, perché poi a livello di esperienze internazionali abbiamo 4-5 giocatori che ce l'hanno ad alto livello e poi abbiamo tanti giovani che la dovranno accumulare. Questo era naturalmente Sarri, sempre per la cronaca, ma anche qui purtroppo quasi non fa notizia, e non lo dico come una sorta di così di autocelebrazione, perché gli scontri non succedono solo da noi. Ieri sera gravi scontri dopo Dinamo Kiev Besiktas, 10 accoltellati, e non lo dico con una malcelata soddisfazione per nulla, perché sennò sarei un cretino. Saluto Pierpaolo Marino, buongiorno direttore, ciao. Buongiorno, ciao caro. Ciao. Lascio la prima domanda a Pardo sul Napoli che ha visto ieri sera. Gli chiedo se questa secondo lui può essere la svolta, se il Napoli ha vissuto una fase sicuramente di involuzione all'inizio del periodo in cui non c'era Milik, e probabilmente c'era anche un risvolto di carattere psicologico. La partita di ieri, insomma, da 2 mesi e mezzo adesso di relax, nel senso che ci si può concentrare praticamente solo sul campionato, e poi è un grande test anche di maturità superato, quindi ti chiedo se questa secondo lui è la vera svolta e dove può arrivare. E ci aggiunge anche la partita con l'Inter, Piero. Ovviamente, certo. Ovviamente. Sì, sicuramente l'occasione è buona, perché ieri sera forse anche più che con la partita con l'Inter, dove c'era stato il rocambolesco 2-0 dopo 6 minuti, 5 minuti e mezzo, 6 minuti di partita. Ieri, su un campo difficile dove in Champions League non vince nessuno con facilità, il Benfica perde una partita in casa ogni 12-13 turni in Coppe Europee, e il Napoli ha mostrato cuore, grinta, personalità, tecnica, e ha dimostrato di essere squadra. E quindi questo può servire per l'autostima, per continuare a cullare dei sogni che, io ripeto sempre, per i napoletani sono più che giustificati. Al di là del fatto che poi si sia infortunato Milik o meno, perché il Napoli dovrebbe avere una rosa in grado di far fronte a tutto. Ecco, di questo parliamo, però come Pierluigi sa benissimo, noi siamo stati anche molto critici nei confronti di Sarri, che è riuscito a rimettere in piedi la baracca senza alla fine cambiare nulla. Tante volte, e io sono sempre stato d'accordo con te, Pier, abbiamo imputato a Sarri un po' di mancanza di fantasia, di capacità di adattamento alle difficoltà. Invece la barca si è raddrizzata, il vento è girato senza che sia cambiato di fatto nulla. No, al volo ti dico, la partita di ieri da un certo punto di vista è stata una partita che non deve essere fuorviante, nel senso che il Napoli l'ha approcciata benissimo, merita applauso e scena aperta. Era comunque una partita in cui c'erano due risultati, l'avevamo detto anche in fase di presentazione, c'erano due risultati su tre, quindi il Napoli poteva esprimersi con la qualità nelle ripartenze, negli spazi che non sono mai mancati. Il problema del Napoli, dopo l'infortunio di Milik, ma legittimo, ovvio, assolutamente quasi normale, quasi fisiologico che fosse così, è stato soprattutto nelle partite con le squadre che si chiudono, perché chiaramente ti manca un punto di riferimento lì davanti. Quindi nel campionato questo qui il problema, secondo me, è un tema che rimane. Detto questo, è un grande test, sì, è superato, sì, la Sarri, sì, è un ennesimo esame che passa e che supera questa squadra, quindi non è che lo possiamo derubricare, anzi siamo strafelici che sia andata così. È un segnale di grande maturità di questa squadra. Sì, tanto che oggi qualcuno ha cominciato a scrivere che Napoli sarà la rompiscatole nelle urne di Champions League, perché è una squadra che forse ha un gioco che si adatta più all'Europa che non all'Italia, paradossalmente quasi a differenza della Juventus. Non so se siete d'accordo, direttore Marino. Sì, guarda, il problema è questo. In Europa il Napoli mostra un volto che è dovuto alla sua voglia di stupire, alla sua, diciamo così, anche caratterialità, che non mostra in campionato contro le medio-piccole. Ha ragione Pardo. Poi, se guardi con le partite con le squadre più grandi, il Napoli non le toppa mai. E la Champions League hai sempre squadre grandi davanti. Quindi io credo che questo sia un limite caratteriale. Ora, con tutti i meriti di Sarri, che io reputo il valore aggiunto di questa squadra, la sua relativa inesperienza riguardo alla situazione di un grande club come il Napoli, perché naturalmente anche per Sarri è la prima volta che fa la Champions League, quindi non è che l'esperienza si guadagna comprandola al mercato, lui la deve conquistare sul campo, e io dico che il Napoli manca di quella continuità, in quella caratterialità, di quella mentalità vincente che è fatta di dover affrontare le piccole, le medie con la stessa forza con cui si affrontano le grandi. Se guardi poi in fondo il Napoli, ieri sera grazie a Dio non ci sono stati biscotti e il Napoli l'avrebbe superati ugualmente, un Napoli pulito qual è stato il Napoli di ieri, che non si è accontentato del pari, ha voluto anche vincere. Sì, però la Dinamo Kiev ad esempio ha fatto un pareggio a Napoli che non preludeva sicuramente a una vittoria al Daluz. Quindi a me piacerebbe che il Napoli ora in campionato affrontasse le partite più normali, fra virgolette, con la stessa intensità e carattere. Ho capito, direttore, ma qui ha ragione Pardo. Non è una cosa. Sì, ma infatti, questa è la differenza. È quello che dice Pierluigi. No, ma il problema è che quando sono andato a Napoli con Bianchi. Uno per volta. Scusa, vai. Vai, quando sono andato a Napoli con Bianchi e con Allodi, sì, nelle prime riunioni Bianchi ci diceva questo, perché era stato giocatore del Napoli, diceva: guarda, quando io ero giocatore del Napoli la mentalità di Napoli era: noi vincevamo con la Juventus, poi perdevamo con l'Atalanta, col Bari, con la Ternana, E noi no, invece avevamo la forza di battere Juve, Inter e Milan. Se noi vogliamo vincere a Napoli, diceva Ottavio Bianco, dobbiamo conquistare la stessa forza che giochiamo le partite con le grandi, con le piccole. Sì, le medie. Poi è arrivato Maradona e ha messo a posto le cose. No, c'era già Maradona, il Napoli era arrivato ottavo con Maradona quando siamo andati noi. Sì, sì, quando sempre siamo andati anno. Noi, era arrivato ottavo con Maradona, mm-hmm. penultimo o terzultimo al girone d'andata, ora mm-hmm. non ricordo con mm-hmm. quale. Mm-hmm. Con Marchesi allenatore. Sì, però no, non vorrei che quello che dice Pardo, che è ampiamente condivisibile, fosse un qualcosa di fisiologico. Pierluigi. Però poi così, cioè io non è un caso che il Napoli abbia giocato le due partite migliori contro il Benfica, che è l'altra squadra che si è qualificata e che era sicuramente la squadra con il Napoli migliore del girone. Mm-hmm. Questo tipo di tendenza c'è e in qualche modo si ricollega e può essere anche incoraggiante per l'Europa. Io sono d'accordo con chi dice che Napoli è una squadra europea. È una squadra europea perché ha una cifra, una qualità di gioco alta. Sì. Quando riesce a imporre il suo gioco è veramente una squadra fortissima. Ed è una squadra che invece ha avuto questa prima parte della stagione qualche problema contro avversari più scorbutiche, partite un pochino meno diciamo così stimolanti dal punto di vista psicologico. Quindi questo tipo di sensazione, mi ricordo avevo fatto un tweet, chiaramente c'erano un sacco di persone contrarie un paio di mesi fa, non so se dopo la sconfitta di Bergamo, però la sensazione era quella lì e rimane oggi, e il Napoli l'ha confermata, cioè di una squadra che nelle grandi notti riesce a tirar fuori il meglio di se stessa. Poi è inutile nasconderlo, sai come la penso, cioè secondo me con un attaccante, con un Dzeko, con un Cardio, con un Milik, oggi certo, più specifica, certo. Questo non c'è dubbio. Allora chiediamo 800240024, intanto è il vostro numero verde per intervenire. Per chiudere chiediamo a Pierpaolo Marino, ora arriva il grano della Champions. Ieri c'era tutto l'establishment del Napoli allo stadio da Luz, non solo per insomma guardare, assistere ad una possibile qualificazione, ma anche per insomma aprire la borsa e lasciarci cadere dentro il denaro. Adesso può cambiare qualcosa nel mercato del Napoli? Ma sicuramente sì, perché questo arrivo di nuove fatturabilità crea la possibilità di operare sul mercato di gennaio, in prospettiva di fare bene in campionato, ma anche nella lotteria della Champions League, perché ora con i turni eliminatori diretti diventa una lotteria, perché a volte anche le favorite escono contro le meno favorite nella Champions League. Se il Napoli dovesse ripetere partite come quella di ieri sera, dove nessuno si deve meravigliare di dire che il Benfica era favorito ieri sera, è proprio la grande forza e bravura del Napoli è stata nel sovvertire il pronostico, e dove il Napoli può andare avanti finché si vuole, cioè se tu azzecchi l'attaccante o i due attaccanti, se va via Gabbiadini, che mi sembra comunque contratto nelle sue prestazioni, come se non anche ieri, perché anche sbaglia ieri dei gol che prima non sbagliava, prima di arrivare a Napoli, o forse nei primi tempi di Napoli non sbagliava, e quindi vuol dire che è un fatto. Sì, ormai mi sembra una storia finita questo con Gabbiadini, quindi è chiaro che il Napoli di attaccanti ne ha bisogno due sul mercato, però ripeto, arrivano i denari della Champions League e il mercato di gennaio è qui dietro l'angolo. Grazie per Paolo Marino, grazie direttore. Ciao, Pierluigi, ciao. Stai lì, ovviamente c'è la borsa. Tutti convocati. Breaking news. Un aggiornamento sulla manovra. Il governo ha incassato la fiducia del Senato sull'articolo 1 della legge di bilancio che contiene la parte normativa. I sì sono stati 173, i no 108 senza astenuti. Ora si passa alla votazione sugli stanziamenti dei ministeri previsti dagli articoli 2 fino al 19. L'ultimo aggiornamento sulla crisi politica di queste ore ci dice che la direzione del Partito Democratico si riunirà a quanto pare alle 17.30. È tutto. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Allora, Pierluigi Pardo, sempre ovviamente collegato con noi, c'è anche Nando Orsi, ma c'è anche un altro grande argomento da affrontare, una polemica che è stata innescata ieri da Baldissoni riguardo a Strootman. Ma io, Nando Orsi, volevo chiedere, prima di parlare di questo, una valutazione sul Napoli risorto. No, era già risorto con l'Inter, ma il Napoli ha sempre giocato bene. Poi dopo vedi una squadra che sembra un po' monca lì davanti, perché concretizza poco la grande mole di lavoro che fa. Perché sì, bisogna dire la verità, sembra, cioè adesso io faccio un paradosso che è grande, cioè non è possibile, però delle volte quando il Napoli fa questo possesso palla sul breve e poi sul lungo sembra un po' il Barcellona. Uh-huh. Perché si muovono tutti molto in maniera sincrone, quindi sì, è vero. Bravi. E poi dopo però alla fine non materializzano tutto il grande lavoro che fanno, però il Napoli ha sempre giocato bene, quindi risorto. Il problema del Napoli è stato sempre, che secondo me è sempre quello dell'alternanza di risultati, quindi se fosse una squadra anche l'anno scorso equilibrata nel risultato, secondo me avrebbe con sì, la Juventus che è il punto su cui ci troviamo tutti d'accordo, cioè con le grandi spesso vediamo un grande Napoli, con le piccole molto meno. Sì. Allora, ieri il giudice sportivo ha squalificato per 2 giornate Strootman per la simulazione del derby dopo quel parapiglia, lo sputo dell'acqua eccetera eccetera, per cui era stato ammonito. Poi c'è stata la simulazione, Strootman salterà le gare con Milan e Juventus e adesso comincia l'aria del complottone, come dice Baldissone. È abbastanza discutibile quello che abbiamo letto, perché si è applicata per la prima volta una comprova TV, una norma sulla simulazione che induce ad una espulsione, benché nel comunicato si legga già in maniera molto chiara che l'espulsione combinata a Cataldi è per quello che Cataldi ha effettivamente fatto, cioè ha strattonato Strootman, e non certo perché ne ha determinato un danno fisico. Lascia veramente un po' di amaro constatare, l'abbiamo detto tante volte, l'ho detto io stesso tante volte, che noi facciamo giurisprudenza, quindi vediamo da anni, purtroppo si ripetono occasioni in cui i confini della giustizia sportiva vengono ampliati sulla pelle della Roma. Sinceramente questo lascia un senso di profonda inquietudine, soprattutto perché siamo in una fase critica e rilevante della stagione, stiamo per affrontare la seconda e la prima in classifica e guarda caso subiamo una squalifica assolutamente inattesa e inconcepibile per quello che è la nostra valutazione di quanto accaduto e di quello che abbiamo appunto letto e che vi ho appena brevemente descritto dal punto di vista anche giuridico. Allora, signori, è complottone oppure no? 800240024, comincia a Pardo, si ha la compagnia di Nando Orsi, ce l'avevamo in linea da prima, si è aggiunto Roberto Renga e io voglio sentire tutti e tre. È complottone, come dice Baldissoni? Pardo? Ma se è complottone non lo so, non mi piace che lo dica Baldissoni, cioè che lo dica un dirigente. È chiaro che l'applicazione è abbastanza forzata, nel senso che l'episodio è stato visto dall'arbitro, l'arbitro ha dato un cartellino giallo, semmai si può discutere sul rosso, cioè sul tipo di danno procurato da parte di Cataldi, che magari poteva essere giallo pure lui invece che rosso, però l'episodio è stato visto e valutato dall'arbitro, quindi da questo punto di vista che sia una... Ma è stato visto e valutato il gesto dell'ama quando gli ha sputato l'acqua o la successiva reazione? Perché questo è il punto cruciale, credo. No, certo, questo è il punto cruciale, però insomma cioè è arrivato un provvedimento disciplinare, è stato un provvedimento disciplinare, anche perché poi questi casi qui spesso si va anche di fronte al paradosso che se uno viene espulso in campo magari si becca una giornata, sì, se invece poi arriva la prova decisiva se ne becca di più, quindi sì, è meglio farsi beccare da un certo punto di vista piuttosto che non che ricevere un giudizio successivo. No, io sono sul merito, sono d'accordo con Baldissoni, non mi piace ovviamente proprio perché lui è un dirigente e quindi non mi piace in assoluto che nessun dirigente di nessuna squadra alimenti una cultura del sospetto che francamente è irricevibile. Cioè, questo tipo di atteggiamento, questo tipo di pensiero lo può fare un tifoso della Roma al bar, sì, e lo rispetto pienamente, che lo sì, faccia un dirigente mi sembra un po' più forte come punto di vista, però evidentemente era anche per lanciare un segnale preciso. Allora, Roberto Renga e Nando Orsi nell'ordine su questo episodio. Allora, intanto buongiorno. Ciao, intanto Roberto. Buongiorno a tutti. Dico che la vicenda è assolutamente nuova e per cui noi dobbiamo esaminarla tutti noi, immagino, con grande serenità. Dice Pierluigi, dice l'arbitro ha visto tutto. Io non lo so. perché se l'arbitro ha visto tutto, perché ha dato il rosso al laziale e ha dato solo il giallo al romanista? Io non lo so sinceramente, però è questo il nodo, e il nodo è quello, cioè la prova televisiva che l'ha diretta l'arbitro non l'ha visto. No, Roberto, come però voglio dire, l'arbitro... Dimmi, Pierluigi. La carta in barca è questa. No, come gliel'ho fatto vedere, prego. Scusate, no, dico, l'arbitro probabilmente avrà visto male, avrà giudicato male, non ci sono dubbi, però ha visto, e non si può dire che non abbia visto, non è un episodio che l'arbitro non ha visto, è pieno di... Non te lo può dire. Perché sennò altrimenti non avrebbero applicato la prova televisiva. Sì, ma se il giudice sportivo hanno sentito l'arbitro e l'arbitro gli ha detto guarda che non l'ho visto. Chiaramente sì. lui l'arbitro, come tutti noi inizialmente, forse se non avessimo visto da dietro le immagini, avremmo pensato che gli ha dato una spinta, una grossa spinta in avanti Cataldi. Mm. Invece gli ha dato appena preso il colletto tirandolo indietro. Beh, però se ha visto male, non rientra nella fattispecie della prova televisiva. Ha visto male, ma no, ma secondo me, Nando, io non so se Strootman è stato sanzionato perché ha buttato l'acqua in faccia a Cataldi e non per la strattonata. Secondo me è per la provocazione che gli hanno dato le giornate, ma e non per la simulazione. Non lo so, io perché non la simulazione è stata sanzionata. E tra l'altro una simulazione, cioè ancora io non capisco come i giocatori facciano le sceneggiate proprio sapendo benissimo che stanno 50 telecamere. Cioè Strootman sembrava avesse preso chissà che cosa, neanche l'ha toccato, cioè gli ha preso una magliettina, gliel'ha un po' tirata, ma veramente, cioè io quello che dico, no, tu hai fatto però... gol, hai fatto gol, stai vincendo 1-0, devi andare a buttare l'acqua in faccia a un giocatore, sì, ma quello per è dubbio, quello è dubbio, però il giudice sportivo dice che è per la simulazione. È per la simulazione, infatti Nando, è quello il problema, perché poi sì. I gesti sono stati veramente da asilo infantile. Effettivamente ha simulato, perché non ha simulato, non è che gli ha fatto niente. È quello che ci stiamo dicendo, ma però a questo punto perché tutto cosa. Questo sia valido, ci vuole che l'arbitro non abbia visto, perché altrimenti tu non puoi utilizzare... L'arbitro ha valutato male, ma l'arbitro ha visto, cioè alla luce di questo principio, il giudice sportivo dovrebbe rivedere tutti gli episodi di tutte le partite che sono stati visti, ma visti male, cioè valutati male dall'arbitro, e cambiarli tutti. Ma non è così che funziona. Ragazzi, questa è la situazione, e infatti siamo di fronte a una fattispecie giuridica abbastanza nuova e inquietante, secondo me. Ma è nuovissima. Non c'è nessun dubbio che Strootman abbia fatto una sciocchezza e che l'arbitro lo potesse anche cacciare in campo. Non c'è nessun dubbio, e rientra secondo me in quelle follie, diciamo, un po' da derby, che sono un vizio, secondo me, che andrebbe tolto. E se io fossi un dirigente della Roma, probabilmente sarà anche successo, sarei andato a Strootman a dirgli ma che hai fatto? Perché comunque è un'ingenuità, è una sciocchezza. Che lui, ma tu pensi veramente che il giudice non abbia sentito l'arbitro per dirgli ma lei ha visto tutto? Io credo che l'abbia sentito perché altrimenti rischia una figuraccia. E allora qualcosa non torna. Però volevo sentire Nando Orsi invece sulla, prima di salutarlo, sull'ipotesi di complottismo che è stata lanciata neanche tanto velatamente da Baldissoni, perché dice ma guarda, succede c'è questa nuova fattispecie, guarda caso, alla vigilia delle partite con Milan e Juventus. Stavano attendendo Strootman che facesse una cosa civile dai due giornate nel palazzo. Io non penso, Strootman non faceva niente, che facevano? Niente. Quindi, ma di che stiamo parlando? Sempre le stesse cose. Ogni tanto. Che devono fare? Devono spostare la squalifica di due giornate? Ma che ne so, io non lo so. Ma Strootman se la poteva risparmiare invece di cioè, forse sarebbe stato meglio, vincevano pure. Strootman commette un errore ed è indiscutibile, e lo ripeto, io fossi la società l'avrei buttato, perlomeno gli avrei tirato le orecchie, perché fa una sciocchezza. Detto questo, l'episodio l'arbitro lo vede e lo giudica e dà un cartellino giallo, che è poco probabilmente, ma che è una decisione che l'arbitro prende. Prima volta nella storia succede che una decisione di questo tipo diventa qualcosa di diverso. Cioè il giudice sportivo, con la prova televisiva, si mette essenzialmente a valutare un episodio che l'arbitro ha già valutato e ha già visto. Ma sul referto iniziale dell'arbitro c'è scritto che l'ha ammonito per simulazione, Strootman, ma non per provocazione. Cosa l'ha ammonito, scusami? Per la provocazione, perché ha buttato l'acqua addosso, non lo so. Io non lo so. Vorrebbe sapere quello che sta scritto sul referto dell'arbitro. Perché è stato ammonito Strootman? Perché un attimo, non capisco. Trovo che sia un precedente pericoloso, perché da oggi in avanti qualsiasi episodio che un arbitro non vede completamente, non vede nella sua interezza, e dove prende un provvedimento disciplinare non adeguato, e ci poteva stare il rosso per Trotta, non c'è dubbio, o perlomeno poteva starci il giallo per tutte e due. Sì. Quindi che questa disparità è sicuramente stata sbagliata da parte dell'arbitro. Sì. Però l'arbitro quella roba lì comunque l'ha valutata, ripeto, l'ha valutata male. Diventa secondo me un precedente per cui l'ha valutata giornata, male. Da due parti, l'ha valutata male per la simulazione relativa a Strootman non andando, e per l'espulsione di Cataldi che non ci stava. Esatto, l'ha valutata male in tutti e due i sensi. Grazie Nando. Ciao ragazzi, arrivederci. Ciao, a presto. Roberto Renga, stai qui con noi ancora un po' che rispondiamo agli ascoltatori, ovviamente con Pardo. C'è il traffico, torniamo. Tutti convocati. Convocati. Come era normale, il caso Strootman scatena l'attenzione degli ascoltatori. 800240024 numero verde, Roberto Renga e Pierluigi Pardo con noi. A voi Mario D'Arieti, ragazzi. Mario, buongiorno. Pronto, buongiorno. Intanto guardi, vado qualche cosa controcorrente. Vado direttamente, è inutile che lei mi attacca il telefono o fa qualche cosa di minaccioso nei miei confronti, perché me ne frego, perché io in quanto tifoso della Roma sono indignato intanto per la sua ironia sul complottone. Gente come lei, gente, era di quelli che prima del 2006 di Calciopoli diceva ma se avete tutti quanti questi cazzo di sospetti, allora andate al cinema, non credete più nel calcio, va bene se pensate... Poi sono usciti il libro rosso, poi sono usciti il libro nero, le intercettazioni, e abbiamo visto... Quanto dobbiamo tornare indietro, Mario? Senta, no, abbiamo visto che la realtà supera di molto la fantasia, sì. Quindi non le consento il complottone. No, capito? Allora facciamo il complottino, complottetto, è complotto, allora diciamo che è complotto, diciamo che il campionato è falsato e che spunterà un nuovo libro nero, vuole dire questo? Sia zitto quando parla un romanista e si inginocchia. No, Mario, io non sto zitto e tantomeno mi inginocchio. Guardi, questo se lo può scordare davanti a un romanista, a un laziale, a uno juventino, a un interista, a un milanista o a chiunque altro, mi inginocchio quando vado in chiesa. Pardon? Sì, ecco, no, non so se potete continuare. però io ribadisco quello che dico, cioè, che ho detto prima, cioè, secondo me è una decisione ci inginocchiamo, del regolamento, ma non perché Troppa non abbia sbagliato, Troppa l'ha sbagliato, ma l'episodio è stato valutato e il giallo è arrivato in virtù dell'atteggiamento, adesso prima non l'avevo il giornale in mano, ma l'avevo visto stamattina, dell'atteggiamento provocatorio tenuto nei confronti dell'avversario passato di uscita dopo la segnatura della rete, che provocava la reazione. Quindi questo è il cartellino giallo. Questa cosa qui apre di fatto la possibilità che qualsiasi episodio in futuro che un arbitro valuta in maniera incompleta, produce un precedente, troppo morbida, produce un precedente, arriva il giudice sportivo creando una reazione che, attenzione, è ancora più forte di quello che sarebbe successo se l'arbitro se ne fosse accorto, perché pure questa è un'anomalia. Cioè, se Strootman fosse stato espulso, si sarebbe beccato la sua giornata di squalifica come Cataldi. Avrebbe saltato Roma Milan e avrebbe giocato Juve-Roma. Ma il giudice sportivo dice... Non è colpa di Strootman se l'arbitro è stato troppo clemente nei suoi confronti, giusto? No. Il giudice sportivo è una follia, dice... dai, una decisione assurda ed è una decisione che è assolutamente nuova, che fa giurisprudenza. Ripeto, non mi piace il fatto che Baldissoni, che è un dirigente, dica quello che dice... Perché secondo me, se uno pensa ci sia il complotto, veramente va al cinema, parlando alle frasi dell'ascoltatore di Rieti. Però è chiaro che un tipo di decisione in questo momento della stagione, con una serie di partite così importanti, che il tifoso lo possa pensare non mi sorprende. Un dirigente chiaramente ha un peso molto diverso. Sì. Non sono due partite banali quelle che la Roma sta per giocare. L'altro giorno De Rossi usava la metafora del tabellone del tennis, come ha giocato il quarto di finale con la Lazio, adesso c'è la semifinale con la Pelota, che e non gioca un giocatore francamente di enorme importanza in questo momento per la Roma. Sono sicuro che verrà almeno ridotto. Sì, lo penso anch'io. Detto questo, Roberto Renga senza genuflettersi a nessuno. No, ma io stavo pensando, adesso la reazione di questo signore di Rieti, secondo me, è la conseguenza di quello che viene detto dalla società. Perché se un importante dirigente di una società di una delle più importanti società italiane, dice che in Italia si può fare un complotto e che quindi c'è qualcuno che può convincere un giudice a emettere una sentenza anche falsa o sbagliata per danneggiare una società, e la tifoseria ci crede. E queste sono le conseguenze. Io è da ieri che sono preoccupatissimo per questo. La prossima partita è della Roma, no? E viene negato un rigore alla Roma, no? Sì. Oppure viene dato un rigore agli avversari. Cosa succede? Oppure viene allora dato un rigore che non c'è tutti alla Roma, e allora diciamo compensazione rispetto all'ipotesi che, di ma sì, ma, no, sì, possono, può verificarsi una casistica interminabile. Maurizio, buongiorno. Buongiorno. Dico. Allora, intanto io sono un tifoso romanista più pagato di quello di Rieti. Volevo solo dire che il direttore generale Baldissoni non ha usato la parola complotto, ma ha giustamente evidenziato quella che è considerata da tutti una ingiustizia, in quanto Strootman è stato squalificato, come è scritto nel referto, nella sentenza del giudice, sì, è stato squalificato per simulazione. Sì. E mentre il calciatore della Lazio è stato squalificato non solo per aver discusso, tirato la maglia sotto, ma se guardate altri filmati ha sgambettato Rudiger, col quale aveva avuto nei giorni passati un piccolo battibecco, roba di poco conto. E certo, può dar adito a sospetti questa squalifica del calciatore, anche perché le carte federali non prevedono squalifiche. Ma come dice Maurizio, come dice Pardo, crea un precedente che è pericoloso. Sentiamo anche Roberto, la provincia di Siena, poi rispondono Pardo e Renga, li saluto. Roberto, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Senti, io se fossi la Roma me la prenderei in primis con il giocatore, con Strootman, perché i giocatori devono avere un comportamento più sportivo, cioè questi stupidi gesti antisportivi sono cose da dilettanti e da professionisti, così non ci si aspettano, insomma, ecco, quindi la società se la deve prendere con lui, perché se Strootman aveva fatto gol, aveva esultato, aveva gioito, era andato al centrocampo, non sarebbe mai stato squalificato, non avrebbe avuto, sì, a monte questo discorso si faceva a monte sul comportamento dei giocatori, era il discorso in pratica che faceva Pardo. Ho l'ultimo minuto, 30 secondi per uno a Pardo e a Renga per chiudere il discorso. Allora, non c'è il complotto nei confronti della Roma, perché se guardiamo il campionato la Roma attacca tanto e ha avuto tanti calci di rigore, non c'è un vento. Questa è una decisione profondamente sbagliata, secondo me, per le conseguenze che potrà creare anche in futuro. Sì. Perché è una decisione assolutamente inedita e che di fatto cambia il verdetto su un episodio che l'arbitro ha comunque valutato. Sì. L'avrà valutato in maniera incompleta. Come facciamo a dire, la punto dal punto di vista filosofico, in ogni cosa che un arbitro vede c'è un pezzetto che non vede. Quando sbaglia a dare un rigore, o magari lo vede 5 secondi prima o 5 secondi dopo, e valuta un contatto, lo vede, ma non lo vede al 100%, perché non esiste la verità assoluta. È comunque una valutazione quella dell'arbitro. Certo, per cui è la stessa cosa, l'arbitro valuta questo episodio nel suo complesso e lo ritiene da cartellino giallo. Sì. Poteva dare il rosso, io mi sono parlato con Cesare dopo la partita e penso che potesse dare il rosso a tutte e due. Sì, però ripeto, il paradosso è che il rosso avrebbe portato a una giornata di squalifica. A una giornata di squalifica, ma cosa che sono d'accordo con te, verrà ridotta. Devo salutarvi, ragazzi. Grazie a Roberto Renga, grazie per Luigi Pardo. Buona giornata. Ciao, ci sentiamo. Con Pier ovviamente domani, con Roberto Renga alla prossima occasione. Adesso giornale radio e poi torniamo. Tutti convocati. Sono Giorgio Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Giorgio Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Wafer Lago. Wafer Lago, dolci emozioni italiane. Convocati. Federica che però va al sorpasso ora, cerca di sbriciolare la resistenza dell'ungherese. Federica nella storia, Federica Pellegrini, 1,51,73. Signori, il mosaico è completato. Signori, questa è una ragazza infinita. Ha compiuto l'impresa che le mancava in carriera. E dunque, un omaggio alla divina Federica Pellegrini, che ad un'altra latitudine, lontano da Rio, cioè in Canada, è tornata a vincere a 28 anni, che non è cosa facile, soprattutto non è cosa facile dopo la delusione olimpica, e ha conquistato il titolo mondiale in vasca corta nei suoi 200, non solo, ha anche trascinato la staffetta azzurra in uno storico oro nella 4% stile libero. Davide da Benevento, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, a proposito dell'episodio di Strootman, io ritengo che una società seria dovrebbe vergognarsi per il comportamento di un giocatore che provoca, dopo essere passato in vantaggio, provoca buttando l'acqua in faccia a un avversario e dopo simulando anche per una trattenuta di maglia. Allora, una società di Serie A nel campionato italiano, che viene visto tra l'altro anche a livello internazionale, perché le partite italiane vanno in tutto il mondo, dove tra l'altro il calcio è una cassa di risonanza enorme, ci sono un sacco di bambini, di adolescenti che praticano il calcio e vedono questa scena. Se queste cose non vengono sanzionate, sì, allora ne perde di credibilità tutto il sistema, a mio avviso. Quindi io applaudo la sentenza del giudice sportivo e ben vengano altre sentenze anche per altre squadre di questo tipo, perché è l'ora di finirla con questi comportamenti da quarta categoria. Sì, va bene Davide, su tutto questo lei ha ragione, ma l'abbiamo anche detto prima, cioè la società sarebbe dovuta intervenire. Io propendo sempre, per come gli americani, per le sanzioni di carattere pecuniario, toccare nelle tasche e vedrà che la prossima volta non lo fanno più. Detto questo, il discorso si sposta su una fattispecie giurisprudenziale che è destinata a far discutere, perché se la prova TV viene utilizzata per regolamento nel caso in cui l'arbitro non vede un episodio, non viene utilizzata secondo regolamento per modificare un episodio e quindi una sanzione che l'arbitro ha preso. Quindi la discussione da questo punto di vista rimane aperta, restando valido tutto quello che lei ha detto. Non so se il signor Champions League Sandro Sabatini da Mediaset è d'accordo. Ciao, sì, sono d'accordo. In ogni caso è un pasticcio questo di Strootman, perché a parte da un paio di termini che ha usato, un paio di parole che ha usato l'ascoltatore, su cui io ovviamente non posso essere d'accordo perché non sono per le esasperazioni, però il gesto lì dell'acqua in faccia a Cataldi è un bruttissimo. Sì, un brutto gesto. Gli ha sputato addosso, che sia acqua che sia saliva, non stiamo a sindacare. Anche il gesto dell'ama non è esattissimo, non è precisissimo, però insomma è comunque un brutto gesto che meritava una sanzione pari a quella poi ricevuta da Cataldi. E al tempo stesso è un pasticcio giuridico, perché nel momento in cui dici che il giocatore subisce una trattenuta lieve non puoi più sostenere la simulazione. Certo. Quindi io non so come la aggiusteranno. A Strootman è andata molto bene in campo perché è solo per il giallo, è andata molto male adesso dal giudice sportivo perché ha avuto due giornate di squalifica. Parliamoci chiaro, ci fosse una via per arrivare a una giornata di squalifica come se avesse ricevuto il rosso in campo, probabilmente ci sarebbe la soluzione più giusta. Sì, solo, ma quello che accadrà, Sandro, quello che accadrà, possiamo fare una scommessa, quello che accadrà. Guarda, scommetto volentieri anch'io, proprio perché sarebbe la cosa più giusta, e solo che carte alla mano mi sembra che debbano trovare una via tutta nuova, perché altrimenti la simulazione, come comprova TV, prevede minimo due giornate. Sì, sì, sì, questo è chiaro, ma soprattutto non prevede un overrule sulla decisione dell'arbitro. Senti, parliamo di Champions invece. Stasera la Juventus che ha una gara onestamente semplice contro un avversario semplice, che ha messo in banca il primo posto del girone, primo posto a portata di mano, ma un primo posto che quest'anno, guarda un po', non è discorso che guarda che per il Napoli, non regala reali vantaggi, anche se Allegri, molto sorridente in questi giorni, non è d'accordo. Adesso che siamo arrivati all'ultima, sono equilibrate davvero la prima urna e la seconda, o dipende da Real Borussia? Grazie. Non lo so, no, mi viene da ridere perché questo tormentone. E prima siamo partiti alla prima parte del girone. Bisogna arrivare primi perché la Juventus deve arrivare primi. Perché arrivando primi abbiamo tutti i vantaggi del mondo. Ora siamo primi se arrivassi secondi. Ma guarda che siete buffi veri voi. Ah, siete buffi veri voi, Sandro Sabatini. Ma io tendenzialmente sono portato da ragione da Allegri. Anch'io. Perché nella sua ironia c'è anche tanta saggezza, non è che poi tu devi buttare al primo posto. La verità, secondo me, è che l'importanza o il vantaggio o la convenienza tra primo e secondo posto questa sera dipenderà dal risultato del Santiago Bernabéu. Sì, certo. Perché se vince il Real Madrid è chiaro che il Real Madrid è sulla carta e sul campo più forte del Borussia Dortmund, e quindi meglio scegliere i tedeschi in un eventuale sorteggio. E poi non dimentichiamo un particolare: tra le seconde è vero c'è il Bayern Monaco, supponiamo, però un conto è affrontare il Bayern Monaco con la prima in trasferta e la seconda in casa. È un conto il contrario, insomma, cioè alla fine non è determinante, ma arrivare primi è sempre meglio che arrivare secondi. Come direbbe Catalano esatto. Allegri, noi siamo d'accordo su questo punto. Cioè, però lo strano caso della squadra che ha più culo in Europa e che si chiama Siviglia, perché ha nelle sue mani un destino clamoroso. Dovesse arrivare secondo nel suo girone, allora il Siviglia in una botta soltanto eviterebbe al prossimo turno Barcellona Real, perché sono spagnole, così come Atletico Madrid, il City, il Paris Saint Germain, il Bayern Monaco e la Juventus. Sì, però io devo dire una cosa, sarà la storia, sarà giocherà con Scapoli, contro la squadra Scapoli ammogliati. Sì, però sarà la tradizione, sarà la storia, sarà l'istinto, sarà la suggestione, sarà quel che sarà, come cantavano forse i ricchi e poveri tanti anni fa, ma secondo me il Siviglia rischia tantissimo stasera a Lione. E con una sconfitta il Siviglia torna nel proprio habitat naturale, che è l'Europa League, così rivincerà l'Europa League. Però ecco, attenzione a dare, perché la partita di stasera, secondo me, il Lione è in una buonissima condizione di forma e il Siviglia un po' meno. Vedremo, secondo me è forse la partita più alta tensione in programma stasera. Sì. Torniamo a ieri sera invece, notte da incubo per il Besiktas, notte da incubo anche dopo per gli scontri che sono capitati fuori dallo stadio con 10 accoltellati, ma notte da incubo per il Besiktas con le lacrime dei calciatori alla fine del primo tempo, quando già erano sotto 0-4 con la Dinamo, che sembrava il materasso di questo girone. Sì, è una partita poi condizionata a quel clamoroso errore dell'arbitro dopo 5 minuti, anche se lì eravamo già 1-0 per la Dinamo Kiev e il Besiktas era già in rimonta. Poi la proporzione della sconfitta sono diventati clamorosi, vistose, e c'è la scena del portiere che piange dopo il 4-0. Sì. L'abbiamo trasmessa, è andata a finire immediatamente sui social insieme alla faccia del portiere che dopo il risultato positivo a Napoli si era rivolto a una telecamera in modo irridente. Quindi hai capito, poi c'è sempre nella serie chi la fa l'aspetti. Esatto, chi la fa l'aspetti. Sugli episodi, sulla violenza preferisco non esprimermi, perché sarei soltanto ripetitivo oltre che retorico, oltre che indignato. E per quanto riguarda invece in generale, comunque al di là dei dettagli, lo splendore del calcio internazionale è testimoniato anche dalla correttezza estrema di risultati mai scontati. Pensate che ieri sera Dinamo Kiev Besiktas 6-0, ma anche Paris Saint Germain Ludogorets 2-2. Certo, col Paris Saint Germain che ha fatto l'Arachiri. Per finire, altro tema emerso, cioè il Ciolo Simeone, dopo le parole dei giorni scorsi, i sogni nerazzurri, eccetera, eccetera, eccetera, se lo dice mio figlio, mia moglie, mio papà, mio zio, Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Elvise Falzone in redazione, e anche Sandro Sabatini da Mediaset, vuol dire che finirà all'Inter. Ieri sera Simeone ha detto: no, beh, aspettate un attimo, non è esattamente così. Ormai non parlerò mai più di questo tema, perché ognuno la toma come vuole, e allora quando è così preferisco stare in silenzio. Ormai ho detto quello che penso, non parlerò più di questo. Non hai parlato tu stavolta, ha parlato tuo figlio. No, lui ha risposto una cosa normale. E dopodiché hanno fatto tante chiacchiere che credo che non servono a niente. Cosa ne pensi, Sandro? Rimarrà un sogno? Ma guarda, io penso tante cose tutte assieme. Tutte assieme. Io Simone lo conosco personalmente e lo reputo una persona molto un grande allenatore, anche molto passionale e molto furbo. Passionale nel senso che comunque lui ha in testa di ripercorrere anche da allenatore la traiettoria che ha avuto da calciatore nelle squadre che gli sono entrate più nel cuore, ovvero l'Atletico Madrid e l'Inter, questo è sicuro. Anche molto furbo, perché sa benissimo che lanciando questi messaggi stende un tappeto rosso lunghissimo da Madrid fino a Milano, zona San Siro, però questo non è che questo sia falso, perché lui ce l'ha nella testa di allenare l'Inter. Sull'opportunità però di dirle le frasi e il figlio, la moglie, questo io non posso essere d'accordo, perché mette tutti in difficoltà. Chiaro. No, no, ma infatti fa benissimo a fare il pompiere, perché fa benissimo a fare il pompiere, perché hai ragione tu, altrimenti quel tappeto rosso è già steso e quel tappeto rosso non può far piacere agli attuali datori di lavoro del Ciolo Simeone, che lo pagano profumatamente con un contratto che è ancora lungo, quindi sono parole sacrosante. E al tempo stesso, in tutte le cose che ho in mente su Simeone, c'è anche l'ultima, che sembra quasi una provocazione, ma in realtà non lo è. Una volta si diceva che l'allenatore, o diceva Cappello, conta appena il 20%. Io non sono d'accordo su questa percentuale. Adesso l'allenatore con l'evoluzione tattica conta molto di più, però credetemi, se l'Inter quest'anno vale il quinto posto, con Simeone può valere il terzo posto. Cioè il divario tra un allenatore, un bravo allenatore come Pioli, e un allenatore probabilmente più bravo, più esperto, più carico, più tutto come Simeone, comunque non va oltre uno o due posti in classifica. Non è che arriva Simeone e tac vince il campionato questa squadra, perché nemmeno quando è arrivato Mourinho, insomma, qualche cosa è stata fatta per migliorare quella squadra, mettendogli in mano comunque una squadra competitiva, perché al di là del fenomeno Leicester si vince con le squadre forti, e gli allenatori bravi sono quelli che riescono, fanno questo mestiere di vincere con le squadre forti, che è un mestiere diverso rispetto a quello di fare l'allenatore tout court, come ho detto molte volte. Grazie Sandro, alla prossima. Grazie a voi. Ciao, ti abbraccio. Ciao Sandro Sabatini. Allora, cosa facciamo prima? Giuseppe Massimo, o sentiamo cosa ha detto ieri Nico Rosberg dopo la consegna del casco d'oro? Giuseppe, dai, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi convocato. A lei, dica. Anche grazie per, diciamo che la vostra trasmissione mi ha riavvicinato un attimo al calcio. Benissimo. Perché ho sempre visto la vostra onestà intellettuale nell'affrontare le cose. Ma sì, ma anche perché proviamo a divertirci al di là delle genuflessioni. Ecco, oggi invece non capisco la posizione di Pardo su quello che è successo a Roma, sinceramente. Io se non ricordo male, io sono tifoso milanista, mi ricordo un Van Basten anni fa che la prova TV lo scagionò e gli tirarono via le due giornate di squalifica. Sì. Quindi non è vero che la prova TV non è mai intervenuta, anche se l'arbitro aveva visto tutto, aveva scritto nel referto. Sì, c'è anche un altro precedente. L'avvocato Grassani è stato intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport e ricorda l'episodio di Zalaieta. A proposito della fondatezza del discorso della Roma, Grassani dice sì, e ricorda il reclamo che feci per Zalaieta, fermato per due turni dopo un Napoli-Juve del 2007. Per aver simulato un fallo da rigore di Le Grottaglie. Come andò a finire? In appello la squalifica fu tolta perché Le Grottaglie aveva poggiato la mano sulla spalla di Zalaieta. Il contatto c'era e la simulazione non era evidente. Quindi anche da questo punto di vista esiste una sorta di precedente. Certamente rimane il fatto che è un incredibile pasticcio che verrà risolto, io credo con almeno una riduzione della squalifica del giocatore giallorosso. Massimo, buongiorno. Buongiorno, tifoso juventino e quindi dopo il milanista credo che un altro tifoso interessato a questo caso Strootman potesse esserci. Io vorrei dare questa mia interpretazione. Credo che l'arbitro abbia visto assolutamente la provocazione e la reazione, ma non si sia reso conto della gravità di quello che è successo al giocatore romano, e quindi il giudice sportivo probabilmente sotto richiesta magari della società laziale, che può aver richiesto qualcosa per il proprio giocatore, abbia visto la simulazione che con arrecato danno comporta la pena di 2 giornate, e in questa ottica dovrebbe essere tutto regolare. E solo un'altra cosa vorrei dire, che siccome sono cose da sanzionare a prescindere dalla squadra che viene coinvolta, credo che non, come diceva Pardo, che questo sia un precedente negativo, ma che possa diventare un precedente positivo per rendere il calcio italiano un po' più corretto. Sì, e però Massimo, ci sono dei regolamenti. Certo. Però la prova TV entra in ballo quando l'arbitro non vede e non esprime una sua valutazione. Quindi non c'è, ripeto, un overrule non è previsto un overrule sulla decisione dell'arbitro. Questo è il punto. Allora, vi faccio sentire cosa ha detto Nico Rosberg ieri ritirando ad Autosprint il famoso casco d'oro. Io sono proprio soddisfatto con la mia carriera adesso, sono riuscito a fare tutto quello che sognavo come piccolo di riuscire, questo sono riuscito e mi sento molto bene metterci un termine quando sono proprio in cima sul Mount Everest. Prima di tutto sarà tempo famiglia, perché la famiglia non l'ho vista molto, molto quest'anno. E poi però dopo un po' di settimane o mesi sicuro mi lancerò su qualche nuovi progetti, c'è tanta di quella cosa nella vita che si può fare e sarà divertente partire su delle nuove cose. Questo era Nico Rosberg, quello che state per sentire invece è Mario Boni. Ciao Mario. Ciao Carlo, buongiorno. Non credo che l'umore sia migliorato dopo la sconfitta di Napoli da interista. Mamma mia, la mia domanda è, in genere nelle società quando vediamo in giro, quando qualcuno spende 100 milioni, 120 milioni e li butta via, qualcuno paga, no? Dimissioni, eccetera. Uh-huh. Nell'Inter non paga nessuno, questo mi stupisce. Forse anche perché non c'è nessuno che presenta il conto. Esatto, la società, io dico, a volte vediamo i furbetti del cartellino, anzi vediamo spesso, no? E quindi polemiche, licenziamenti, e qui quando ci sono dei buchi con Dorbià, parliamo di Gabigol, lo João Mario 40 milioni, Banega che non riesce a giocare, anche proprio come impostazione del modo di giocare, no? Deve essere criticabile, invece qui vedo che nessuno paga. Zanetti, che io credo, ecco, correggimi se sbaglio, ma io credo che Zanetti sia l'unico dirigente che è stato assunto dalla società, non è una partita IVA come me, è stato assunto. Quindi ecco, cose assai curiose succedono all'Inter. Senti, cose abbastanza curiose succedono anche all'Armani, dove ne parlavamo anche ieri con Flavio Vanetti, per la prima volta invece di mandare via un allenatore viene mandato via il giocatore più rappresentativo, e cioè Alessandro Gentile. Qual è il tuo pensiero su questa vicenda? Beh, è una vicenda, il rapporto credo fosse logoro già dopo quest'estate, no? Sì, ricordiamo quando sembrava dovesse andare nell'NBA, dopo a Barcellona eccetera, quindi era Gentile sicuramente schiavo ben retribuito del suo contratto, e la società a sua loro volta non possono deprezzare un giocatore che ha questo tipo di contratto, anche perché non c'era una società subentrante. Io dico che hanno fatto bene a lasciarsi, andrà via in prestito, bisogna vedere chi prenderà anche il suo contratto in questo periodo, però era una scelta dovuta, ha fatto bene, doveva farlo prima Alessandro. Quindi la scelta è giusta. Quando le cose non vanno non bisogna stare in paradiso rispetto ai santi. Le cose non vanno, non poteva mandare via l'allenatore e per equità, ma poi vedevi che il giocatore non era sereno, stava bene. Quindi insomma non sono così stupito, sono stupito del fatto che sia venuto così tardi. Grazie Mario, un abbraccio. Ciao Mario, ciao. Un abbraccione. Allora, per chiudere abbiamo Giovanni Capuano che ha delle novità sul caso Strootman. Eccolo qua. Ma che guarda, succede? Intanto al di là del caso Strootman e della squalifica di cui avete parlato, perché c'è quell'intervista lì che ieri ha lasciato il direttore generale Baldissoni, che ha fatto discutere soprattutto con quel passaggio, cioè guarda caso arriva questa squalifica prima delle partite contro Milan e Juventus. E allora diciamo che in questi minuti ho raccolto informazioni per cui in realtà quel guarda caso andrebbe inteso in maniera un po' diversa da quello che abbiamo fatto tutti, anche legittimamente, cioè quasi l'idea che ci fosse un disegno preordinato sul campionato. Quelle parole lì, mi è stato detto, Baldissoni le ha dette quasi con risentimento, ma perché la squalifica priva Spalletti di un giocatore fondamentale prima di due partite importanti e anche in un reparto come il centrocampo che ha già qualche difficoltà. Cioè è un po' come Montella che domenica ha detto, dopo l'ammonizione di Kuchka che porta alla squalifica, era un'ammonizione scritta, si trattava di uno scatto di nervi per intenderci e non del voler mettere in dubbio la regolarità o meno del campionato. Questo mi è stato detto, mi è stato anche sottolineato, insomma, no, siamo all'esegesi del testo, sì, però mi è anche stato sottolineato ad esempio che la Roma ha tenuto un profilo bassissimo sulla vicenda Lulic e quindi non c'era nessun interesse a fare polemiche ad alzare un polverone. Forse questo vuol dire poco, per come la intendo io, ma credo anche tu, credo qualunque persona, insomma, quel guarda caso, poi ripeto, facciamo l'esercizio del testo e crediamo frase alla Roma, certamente ambigua, nessuno ha forzato, però necessitava una spiegazione, secondo me, proprio per la profondità di quella frase, perché tra l'altro detta da un dirigente di punta, di una società di punta, insomma, apriva scenari particolari. Beh, certo, e in questo momento non ce n'è bisogno, e quindi insomma il chiarimento su quello che voleva essere il senso, e poi probabilmente le parole sono uscite senza seguire troppo quelle che erano le intenzioni, il senso questo era, per come mi è stato spiegato. Va bene, grazie Giovanni, ci vediamo nei prossimi giorni. Alla ciao, prossima, un abbraccio, Carlo. Ciao. Ringrazio anche Giorgio Drugo, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Alvise Falzone in redazione, ci sentiamo domani.